1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qua alle 8. Sì. Vabbè, ho capito quella roba lì. So, tranquilli, non siete in ritardo di un'ora. Vi stavate già scapicollando verso. Sono le 7 e 18 minuti. È il 18 che va fregato. Non è. Sono le 7 e 18 minuti. Non è ritornata l'ora solare, l'ora legale, quella roba lì. Ho sbagliato io, ma sono Alessandro Milan e siamo qua pronti a leggere i giornali e pronti a ricordarvi che oggi parleremo di che cosa. Sapete che a Milano ci sono 4.084 case popolari stabilmente occupate. Dall'inizio dell'anno sono già 1.300 i tentativi di occupare una casa popolare, una casa di altri. E questo dà origine a un racket, dà origine anche alla... A violenze, a un sottobosco ovviamente di criminalità. E soprattutto le autorità che fanno? Ma è ancora possibile, come negli anni 70, occupare le case e non si può fare nulla? Beh, adesso, dopo le varie inchieste, prima ne aveva parlato vari giornali, La Stampa, La Padania, ora il Corriere della Sera sta facendo un'inchiesta nazionale a dire ma che scandalo è? Adesso le autorità si muovono, faremo di tutto, però... Al momento le case rimangono occupate e lo rimarranno. Ne parleremo oggi, come parleremo anche col sindaco di Trento, che è del PD ma ha deciso di non trascrivere i matrimoni omosessuali tra persone dello stesso sesso. Lo avremo alle 8.45. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo martedì 4 novembre, intanto i titoli, Il Sole 24 Ore apre sul presidente di Confindustria Squinzi, la manovra toglie il freno al paese, questo è il titolo di prima pagina, mentre per il Corriere della Sera TFR in busta, i dubbi di Banca Italia, così anche La Stampa, Banca Italia, allarme pensioni e Repubblica, TFR, Banca Italia frena, Renzi, c'è un disegno per spaccare l'Italia. Il Messaggero, il Viminale, cortei, nuove regole, arrivano nuove regole per i cortei. Mentre il Giornale mette in prima pagina la vicenda da cui partiremo tra poco, la vicenda Report e l'inchiesta su Moncler, quelli che spennano l'Italia. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Fatto Quotidiano, Renzi grida il complotto, sì, ma di Banca Italia e Istat, giura il Fatto. Mentre Libera un'intervista a Salvini, mi prendo il centrodestra. E invece segnalo il Manifesto, che ha questa prima pagina, salto con l'asta. Perché? Perché il Manifesto annuncia a fine anno i liquidatori metteranno la testata all'asta e il Manifesto lancia una campagna tra i suoi lettori a dire dobbiamo finanziarci per comprare la nostra stessa testata che andrà all'asta a fine anno. Voglio però partire appunto da questa vicenda Moncler. Io non ho visto Report, mea culpa, ma c'era il Milan d'altronde, quella brillantissima partita col Palermo. Ma questa vicenda dell'inchiesta su Moncler sta facendo molto scalpore. Intanto ha affondato in borsa il titolo di Moncler ieri. Che cosa ha fatto Report? Ha mandato la sua giornalista al seguito, tra l'altro. E qui ci sono, perché lo dico? Perché sia il giornale mette il titolo di prima pagina, il Fatto Quotidiano mette pagina 2 e 3. Questa inchiesta di Moncler su Moncler, nella quale una giornalista segue la produzione per esempio delle piume delle oche che racconta Libero, racconta il Fatto Quotidiano e racconta riporta Report. Siamo andati a vedere come trattano le oche, strappano le piume da vive, molte muoiono, l'azienda si difende dicendo non è assolutamente vero, noi rispettiamo gli animali, non sono quelli i nostri fornitori. Comunque tutto questo finisce come polemiche sui giornali, con due opposte visioni. Per esempio, guardate il Fatto Quotidiano in prima pagina, le piume strappate di Moncler. La trasmissione Rai Report smitizza una delle nostre aziende più esaltate anche dal renzismo. Oche spennate ancora vive per le imbottiture, dislocazioni in Romania, capi che costano 40 euro venduti a 1000. anche se il patron Ruffini smentisce tutto. Piazza Affari lo punisce. Anche il Secolo XIX dedica una pagina a questo. La rete difende le oche in borsa, tonfo per Moncler. L'azienda si difende, è tutto regolare, e oggi il giornale mette la vicenda in prima pagina con il titolo Masochismi. Scrive Alessandro Sallusti un editoriale in prima pagina a dire: domenica cosa è successo nel corso di Report? Siamo fautori del giornalismo d'inchiesta e apprezziamo i colleghi che lo praticano, ma sappiamo quanto delicato sia questo genere. Una somma di fatti veri non necessariamente porta alla verità. E allora cosa si vede in questa inchiesta di Report? Doppio scandalo, animali trattati e maltrattati e margini di guadagno iperbolici. Il risultato che in borsa Moncler perde fino al 5% bruciando 140 milioni del suo capitale. Ma scrive Sallusti, scusate il gioco di parole, ma è davvero da oche giulive cadere in un simile tranello. Prima osservazione, Report non è riuscito in alcun modo a dimostrare che ci sia una complicità tra gli allevatori crudeli e Moncler. Seconda osservazione, si è taciuto che al netto dei costi di trasporto, stilisti, ricerca, pubblicità, negozi, dipendenti, tasse, Moncler per ogni piumino venduto non ricava più di 100 euro, il che non mi sembra una porcheria, tantomeno un reato. E siamo orgogliosi che un italiano, Remo Ruffini, abbia acquistato anni fa Moncler dai francesi e col suo ingegno l'abbia trasformata da marchio fallito a sogno collettivo internazionale. Un vero scoop, non come quelli Sfascia Italia della Gabanelli. Vabbè, come vedete il giornalismo si divide, il Fatto Quotidiano che in qualche modo sottolinea ancora e ribadisce l'inchiesta di Report, Moncler spiumato in borsa, e invece il giornale che difende, dice sono masochismi. Ricordate la vicenda Tremonti? È indagato per corruzione, per questa mega fattura di Finmeccanica quando era ministro, fattura da 2,4 milioni pagata allo studio tributarista dove Tremonti allora non lavorava perché era ministro, ma ora è tornato a lavorare. Ebbene, il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella racconta un particolare anche gustoso, se volete. Sapete che quando si fa una perquisizione non si può entrare nell'ufficio di un parlamentare. Ci vuole la richiesta, ovviamente, al Parlamento. E allora sono andati a fare la perquisizione nello studio dove fa il tributarista Tremonti. Titolo di pagina 17, un foglio sulla porta a proteggere il server. Ufficio di Tremonti. Dov'è ubicato l'ufficio personale del senatore Giulio Tremonti? Si chiede il Corriere della Sera. È in un locale che comunica con un bagnetto, in una stanzetta dove c'è la sala server che giovedì scorso era proprio tra i bersagli della perquisizione dei carabinieri. Possibile? Sì, almeno stando a un foglio bianco formato a quattro, appiccicato in fretta e furia col nastro adesivo giovedì mattina, da un collaboratore dello studio nel pasticciato tentativo di segnalare agli investigatori che da lì in poi rischiavano di inoltrarsi nel terreno inviolabile protetto dall'immunità parlamentare del senatore Tremonti. Questo è il curioso retroscena della perquisizione ordinata dai PM nell'ufficio appunto dove lavora Tremonti. La perquisizione è stata disposta in un altro fascicolo nel quale due soci di studio di Tremonti risultano indagati per ipotesi di riciclaggio dopo che due imprenditori napoletani hanno dichiarato di essersi visti offrire da Marco Milanese per ritrattare le accuse mosse dall'ex consigliere Tremonti a Napoli una grossa somma di denaro custodita, a loro dire, nello studio Romagnoli Vitali Tremonti. Ma quando i carabinieri entrano nello studio chiedono al personale che indichi loro uffici e dotazioni di pertinenza del senatore, e accompagnati fanno un primo giro, non vedono nulla di strano, ne fanno un secondo e scorgono una persona che appiccica intanto un foglio a una porta. Tac! È l'informatico che si occupa dei computer dello studio e sul foglio c'è scritto ufficio personale del dottor professor Tremonti Giulio. Solo che dietro la porta non c'è lo studio del senatore, ma solo il server che custodisce i dati dei computer dello studio, dietro il quale un'altra porta comunica con un bagno privato che a sua volta comunica con l'ufficio del senatore. Vabbè, chiaro che questa vicenda non ha retto perché il server è stato perquisito, nonostante questo foglio appiccicaticcio. Ma siamo al premio Mani sul Volante, l'articolo che ci fa pensare di questa giornata ed è proprio relativo all'argomento che tratteremo dalle 8:15. L'intervista all'ex prefetto Gian Valerio Lombardi, ex prefetto di Milano, oggi presiede, anzi è commissario della ALER di Milano, cioè l'azienda che gestisce l'edilizia popolare, e che in un'intervista al Quotidiano Nazionale di fatto fa capire che non c'è poco da fare, ci sono le case occupate. Di più non possiamo fare. L'Aller d'altronde ha i conti al dissesto, perché nessuno nelle case popolari, o meglio nessuno, pochissimi, pochi, diciamo così, se no qualcuno si offende, pagano le spese condominiali, quindi non si possono ristrutturare le case cadono a pezzi. Noi abbiamo già fatto molto per quelle che sono le nostre possibilità, ma pur avvertendo, dice il prefetto, pur avvertendo una certa responsabilità, spetta alle forze dell'ordine allontanare gli occupanti abusivi, non ad Aler, che è solo la proprietaria degli alloggi. Classica cosa all'italiana, per cui voi tenete le mani strette sul volante o appoggiate le tazzine del caffè bollente. Noi la raccontiamo, dite che noi e che io vi faccio arrabbiare, ma non sono io che vi faccio arrabbiare, io racconto solo quello che raccontano i giornali, forse vi fa incazzare questo paese. E allora, picciotte, aspettamone. Ora Alino Milan mi legge in notizie. Alessandro Milan, il potere forte dell'informazione. Ma è ovvio, sono io il potere forte che condiziona tutto in Italia. Allora, a proposito di poteri forti, ieri Renzi ha detto: ma come, qualche mese fa eravamo i ragazzini inesperti, adesso saremmo diventati il governo dei poteri forti. Comunque un Renzi che ieri, parlando a Brescia, non ha lesinato critiche dicendo questa frase che è finita su tutti i titoli dei giornali: oggi si usa il lavoro per spaccare l'Italia. È stato calcolato e progettato un disegno in queste settimane per dividere il mondo del lavoro e farne terreno di scontro, dice Renzi, che ha nel mirino, a detta di tutti, anche se non la nomina mai, la CGIL. Si vuole insomma sfruttare il dolore dei cassi integrati e dei disoccupati, ma non esiste una doppia Italia, esiste un'Italia unica e indivisibile che si faccia il lavoratore o l'imprenditore, e questa Italia non consentirà di scendere nello scontro. Come scrive il Sole 24 Ore, è un fiume in piena dunque Renzi, non la prende bene Susanna Camusso, che risponde a Stretto Giro e dice che sono frasi assolutamente sbagliate quelle del Premier. Sta di fatto che lo scontro si acuisce. Eccolo qui i titoli dei giornali. Renzi, c'è un disegno per spaccare il paese. Questo è anche il titolo del Corriere della Sera, pagina 4. Parole che, alle quali replica appunto la Camusso, c'è molto nervosismo nelle parole del Presidente del Consiglio. Anche il Fatto Quotidiano: vogliono spaccare il paese e la colpa è dei sindacati. Questo è un titolo tra parentesi, la colpa è dei sindacati, è il sottointeso che ha detto il Presidente del Consiglio. Questo è il titolo a pagina 4. Anche La Stampa: c'è un disegno per dividere. Insomma, la linea è questa, ed è una linea che è sottolineata e corroborata anche dalle parole del ministro lavoro Poletti, che viene intervistato da Alessandro Barbera sulla Stampa, pagina 5. Guardate il titolo: questi scioperi sono politici, il Jobs Act per me non cambia. Così Poletti. La manifestazione era organizzata ieri a Brescia da un gruppo di esponenti dei centri sociali, credo avesse finalità più che altro politiche, tipiche di questi raggruppamenti. In ogni caso è bene che tutti coloro i quali intervengono intorno ai temi del lavoro evitino di alzare i toni oltre un certo livello. Non sarò io a scaricare le responsabilità addosso a qualcuno. La settimana scorsa sono accaduti fatti che parlano da soli. Usiamo i toni giusti, confrontiamoci nel merito ed è l'unica cosa che conta. Riguardo alle manifestazioni, dice ancora Poletti, in questi mesi ci sono state centinaia di manifestazioni pacifiche, i lavoratori hanno diritto di scendere in piazza, se un lavoratore sciopera e per questo perde un giorno di paga significa che ha qualcosa da dire, quelle ragioni devono essere ascoltate. Quel che è accaduto a Roma invece è stato un fatto isolato che deve rimanere isolato. E poi riguardo all'articolo 18, e o meglio al Jobs Act, la riforma del lavoro, dice perché purtroppo si parla solo di articolo 18, poi uno guarda i dati e scopre che su 100 nuovi contratti di lavoro, 85 sono a tempo determinato. La legge di stabilità prevede la detassazione dei nuovi contratti a tempo indeterminato, l'abolizione della componente lavoro dell'IRAP. Per la prima volta nella storia di questo paese c'è un governo che, anziché promettere interventi, decide una riforma radicale. Questi sono i fatti. E poi non esclude la fiducia alla Camera sul Jobs Act. Sapete che è il dibattito politico. Al momento non c'è alcuna decisione, ma vorremmo attuare rapidamente le riforme. Su questo Claudio Cerasa sul Foglio racconta qual è la linea Renzi, l'importanza di un nemico a sinistra. Questo è l'articolo di Cerasa, e cioè Renzi sul Jobs Act deve avere due piani, quello mediatico e quello politico. Sul piano mediatico il successo di Renzi è rotondo, lo si può valutare mettendo insieme due obiettivi: far approvare alla direzione del PD l'abolizione parziale dell'articolo 18 e far approvare in Senato il disegno di legge delega sul lavoro. Ma sul piano parlamentare il discorso è più complicato, e lo potremmo riassumere così: tutti sanno che Renzi non ha di fronte a sé ostacoli insormontabili per approvare la riforma del lavoro, ma tutti sanno che per evitare una lacerazione profonda fonda del PD occorre mettere in campo la strategia delle due vittorie. Di che cosa si tratta? Si tratta di questo: si concede qualcosa di simbolico alla minoranza del partito e si permette al segretario di cantare comunque vittoria. Quindi si faranno delle modifiche, soprattutto sul campo appunto dell'articolo 18. Conviene a Renzi, ci sarà un passaggio parlamentare in più al Senato, che cosa succede? Che il disegno di legge delega approvato il 9 ottobre al Senato verrebbe aggiunte delle modifiche formali in grado di recepire quanto approvato dalla direzione del PD lo scorso 29 novembre. Quindi ci vuole un passaggio in più al Senato, la minoranza del PD potrà dire: avete visto? Abbiamo fatto cambiare la legge a Renzi. E il segretario del PD Renzi e Premier potrà dire: avete visto, abbiamo approvato lo stesso testo varato in direzione. Insomma, due vittorie, tutti contenti, una piccola concessione politica e l'effetto mediatico è il risultato che conta. A proposito di manifestazioni, peraltro il Corriere della Sera e il Messaggero raccontano che sul tema dei cortei ci sono delle novità. Il Messaggero mette addirittura questo titolo come primo titolo di prima pagina: cortei, nuove regole di polizia, va evitato lo scontro fisico. Cristiana Mangari racconta sul Messaggero a pagina 5: la prima regola è proprio questa. La polizia cambia politica di gestione dell'ordine pubblico nel caso di manifestazioni. Prima cosa, evitare il più possibile il contatto fisico. I tecnici del Viminale, guidati dal vice capo della polizia Marangoni, hanno studiato le buone pratiche di comportamento e il lavoro della commissione verrà inviato ai sindacati di categoria. Un iter che dovrebbe servire a svecchiare le procedure di ammanettamento, traduzioni, interventi di apostrada, uso dello spray al peperoncino e del manganello. E queste sono le nuove linee guida. Ora i sindacati di polizia dovranno in qualche modo approvarle e valutarle. Anche Fiorenza Sarzanini dedica una pagina intera a questo tema, pagina 5, il Corriere della Sera: cortei, nuove regole di ingaggio agli agenti. Viene chiamata un'area di rispetto per evitare gli scontri. Il clima d'altronde ormai incandescente, scrive Sarzanini. Il provvedimento riguarda il capitolo soprattutto dedicato ai cortei e viene definita un'area di rispetto, cioè una distanza congrua dei reparti in assetto antisommossa da parte tra i reparti e i manifestanti, appunto. Non a caso si ritiene indispensabile che ai lati di chi sfila non vengano schierati agenti in divisa. Questo naturalmente presuppone che si rispetti il percorso che è stato assegnato per la manifestazione. Se uno devia dal percorso, ecco che viene a cadere un po' tutto. Politicamente, tra l'altro, c'è un'intervista di Monica Guerzoni a Dattorre, che è uno della minoranza PD che è più in fibrillazione, non volevo dirlo, ma l'ho detto. Sapevo che altro termine mi potesse venire in mente. Da Torre viene intervistato al Corriere della Sera e dice: chi sbaglia è Renzi, è lui che sbaglia a dividere il paese, noi così voteremo no al Jobs Act se non ci sono modifiche. Chi sbaglia è Renzi o il paese o è Meazza? Meazza, buongiorno, ti ho tirato dentro in questa... Buongiorno, ma io sbaglio sicuramente, per carità, ma infatti per sbagliare un po' meno provo a leggere il Sole 24 Ore. Ecco. Questa è l'unica cosa che posso consigliare anche per anche a te, effettivamente, caro Alessandro. No, stavo leggendo la nota politica di Lina Pagnerini oggi sulla Politica 2.0, che è la nuova serie che inauguriamo proprio oggi, e in cui si discute proprio del sindacato, di queste polemiche relative anche alle manifestazioni, e insomma effettivamente c'è un po' questo confronto tutto italiano, che però in realtà non può non fare i conti con Bruxelles, perché alla fine è lì che dobbiamo andare a parare, dobbiamo andare a spiegare che cosa facciamo. Ma intanto guarda, ti consiglio, hai ancora quei due eurini lì a marcire? Come no? In tasca? A marcire, sì. Tanta pazienza, ma non si può tenere i soldi fermi in questo modo, Alessandro. Vabbè, comunque ti segnalo sulle pagine di Finanza e Mercati che Raiway dal 19 novembre sarà in borsa, quindi insomma non so, qualche consiglio. Investiamo sulla Rai. Se invece sei, io non lo so se tu sei interessato o meno, comunque per i soci di Montepaschi si prepara un aumento di capitale, leggo sempre a Finanza e Mercati, non so se i due eurini dovrai metterli lì. Questo. E investiamo anche però su Montepaschi. No, non voglio entrare nel merito dei tuoi investimenti né dare sollecitazione a questo, per carità. Invece, visto che ci saranno ancora proteste a Pompei, dice una cosa curiosa: dobbiamo riuscire a spendere 105 milioni che non ci ha dato la UE e non sappiamo come fare. Sì, questi sono problemi a volte. Invitiamo a non dare consigli, perché chiaramente ne abbiamo già parecchi. O distribuitele a pioggia, buttateli da un'altezza di 500 metri, 105 milioni, sì. Tutti a Pompei. Siate espansivi nei nostri confronti, sai che la parola di oggi è un po' espansiva, la manovra non è espansiva. Invece, sai, sono espansivi finalmente i dati sulle vendite di auto. Hai visto sul Sole 24 Ore di oggi? Più 9,4%. Torniamo a comprare macchine. Insomma, devo dire, il confronto avviene con un mese che non era stato particolarmente favorevole, anzi era stato forse il peggiore di non so quanti anni, però insomma, se non altro abbiamo migliorato rispetto a quel mese. E poi naturalmente il condominio. Oggi è martedì. C'è la pagina sul condominio con le informazioni sulle spese per le parti comuni e quale può essere la responsabilità dell'impresa se sbaglia qualcosa nei lavori sulle parti comuni. So che tu ti disinteressi del tuo condominio. No, quando c'è da pagare mi interessa moltissimo. Fai male, ecco, quando c'è da pagare appunto vai allora a leggere nelle pagine di norme e tributi cosa ti diciamo rispetto alle spese sulle parti comuni. Caro Mauro, ti segnalo che il tuo sindaco, nonché il mio sindaco Pisapia, oggi fa un'intervista alla Gazzetta dello Sport di un'intera pagina per parlare della crisi del calcio a Milano, di Milan perché e Inter. Non ho seguito ultimamente questo sport. Quale campionato guarda Pisapia? Non lo so, forse. Ma era una cosa che è legata forse alla Formula 1. Non lo so. Io campionato italiano è sospeso da 3 giornate, quindi non lo so. Sì, infatti. Boh. Vabbè, senti, nel dubbio io vado a leggermi comunque le anticipazioni sul 7:30 precompilato che ci manderanno a casa l'anno prossimo. Le mette Giovanni Parente, indovina un po' dove? Su Norme e Tributi. Esatto, e allora a questo punto traffico. Peter Bescapè e Alessandro Milan, il Bud Spencer e Terence Hill dell'informazione. Oh yeah! E avete adesso chi è Bud Spencer dei due? No, cioè per capire chi è Terence Hill. Ma metteremo le foto, metteremo le foto per questo contest tra gli ascoltatori. Allora, vabbè, la politica c'è: Verdini rinviato a giudizio, richiesta di rinvio a giudizio, Berlusconi che dice non lo mollo, sul Libero, però tutto questo mette in dubbio il patto del Nazareno. Vabbè, abbandoniamo la politica, dai, ma andiamo in America, dove il dibattito è molto più forte di quello che c'è stato in Italia per la morte di Brittany Maynard. Brittany Maynard, malata di tumore, ha deciso di porre fine, come aveva annunciato, alla propria vita il 1 novembre. È possibile farlo in Oregon, dove si può fare il suicidio assistito, come non so si può fare in Svizzera. L'ultimo messaggio prima di morire. C'è il dibattito, ovviamente, come al solito. Io trovo abbastanza, francamente, incredibile che di fronte a una scelta libera, libera e consapevole ci sia questo grande dibattito e anche soprattutto le critiche. Comunque si rispetta tutti. Brittany Maynard, pagina 17 di Repubblica, viene pubblicato l'ultimo suo messaggio: se il 2 novembre sarò morta, la mia speranza è che la mia famiglia sia ancora fiera di me e delle scelte che ho fatto, ma se il 2 novembre fossi ancora viva, già so che continueremo ad andare avanti come una famiglia grazie all'amore che ci lega. In quel caso la decisione verrà posticipata. Certa gente, scriveva Brittany, mi critica perché non aspetto più a lungo, altri hanno deciso per conto loro cosa è meglio per me. Tutto questo mi addolora perché sono io quella che rischia. Rischio ogni singolo giorno, ogni volta che mi sveglio al mattino. Lo faccio perché mi sento ancora abbastanza bene, perché riesco ancora a gioire, perché rido e scherzo con gli amici, la famiglia, e perciò non sembra ancora il momento giusto. Però so che quel momento arriverà. Infatti sento che sto peggiorando di settimana in settimana. E ancora scriveva: non mi piace essere fotografata, filmata, starmene troppo davanti allo specchio. Non è che io provi odio e ripugnanza verso me stessa, è solo che il mio corpo è cambiato tanto rapidamente che quasi non mi riconosco. È una faccenda intima. Penso che a volte la gente mi guardi e pensi: non hai l'aria della malata, come dici di essere. Anche questo mi addolora, perché se ho una crisi e poi non riesco a parlare, è ovvio che io senta tutto il peso della mia malattia. Se tutti i miei sogni potessero avverarsi, sopravvivrei, ma è molto improbabile che ciò avvenga. Perciò, quando penso a mia madre e al fatto che io sia figlia unica, voglio che lei si riprenda, che non crolli, che non soffra di depressione. Quanto a mio marito, è un uomo meraviglioso, è naturale che tutti debbano poter piangere un lutto, ma voglio che sia felice, che abbia una famiglia, che non passi la vita a piangere sua moglie. Insomma, spero che continui la sua vita e che diventi un padre. Il mio obiettivo, ovviamente, influenzare la politica affinché approvi il cambiamento consapevole. Vorrei che tutti i cittadini americani avessero accesso agli stessi diritti legati alla salute. Ma al di là della politica, i miei obiettivi sono piuttosto semplici. Si riducono alla mia famiglia e ai miei amici. Voglio assicurarmi che sappiano quanto sono importanti per me e quanto li amo. Così Brittany Maynard, che poi ha deciso il 1 novembre di porre fine alla propria vita. Il dibattito c'è un po' sui giornali, ma è stato un po' sotto traccia. L'addio di Brittany, muoio con dignità, questo è il titolo per esempio della Stampa, mentre c'è un'intervista a Umberto Veronesi, che ogni tanto rispunta in questa battaglia che lui porta avanti per il suicidio assistito. Viene intervistato dal Quotidiano Nazionale, dice: libera scelta con regole, ci vorrebbe il modello olandese per i malati terminali. Mentre è più, sebbene rispettoso della morte di Brittany, è più critico anche Avvenire, che con un articolo di Maurizio Patriciello in prima pagina scrive appunto: non si giudica il dolore altrui, ma riflettere si può e si deve. Brittany ha detto di voler morire con dignità, come se la sofferenza le rubasse dignità, ma non è vero e dirlo è una trappola. Questo è il senso dell'articolo di Maurizio Patriciello con Avvenire, che mette in prima pagina questa storia e anche la vicenda dall'altra parte dell'attrice Anna Marchesini, che è riapparsa lo scorso sabato da Fabio Fazio, dicendo: non ho ancora capito perché si sta in vita, ma ci sto. E vabbè, questo è il dibattito dall'America. Mentre se veniamo ancora alla cronaca italiana, c'è ancora tutta la vicenda Cucchi con le polemiche. Ieri i familiari sono stati ricevuti dal procuratore Pignatone, il quale poi ha detto: difendo i miei PM, quindi l'area Cucchi dice: ma così forse abbiamo perso tempo. La polemica comunque è di là da finire. Mentre invece ribaltone clamoroso. Abbiamo scherzato, i test di medicina sono validi. Mi hanno scritto anche varie persone che hanno fatto questo test nel quale c'è stato un errore materiale nello scambio di domande, ma i test di medicina non vanno ripetuti, contrariamente a quanto dicevamo ieri, perché leggevo i giornali e dicevo rassegnatevi, dovete ripetere. No, non vanno ripetuti. Il ministro Giannini ha stabilito che è stato trovato un metodo per ricalcolare il punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per area ritenute non pertinenti, ma i test sono validi, quindi non andranno ripetuti. Vabbè, ma siamo al momento conclusivo. Quello della carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali oggi. Vince Repubblica, che con mezza pagina va a intervistare Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, che ha messo dei manifesti a Roma che recitano così: viva la rivoluzione sovietica! E chi c'è dietro? Marco Rizzo, che viene intervistato e dice: io ripristino Lenin e Stalin. E mi si dirà: ma c'erano i gulag? Sì, ma bisogna storicizzare, perché il capitalismo è morto e ripartiamo da qui, dal mito della rivoluzione russa. Ma Marco Rizzo, ma Repubblica, ma chi se ne frega!